lascio almeno un po'. Domani poi ti ascolterò. Ora con una faccia stanca e dura ti guarderò, fermo attento ad ogni cosa. Stento molto piano, almeno un po'. Domani poi ti ascolterò. Atmosfera e l'odore di umidità. Ah, non ho voglia di festa stasera. Una festa di quattro contrade. Un gazebo, una triste atmosfera e l'odore di umidità. Ah, non ho voglia di festa stasera. Una festa di quattro contrade. Un gazebo, una triste atmosfera e l'odore di umidità. Non ho voglia di festa stasera.